Siamo in collegamento con Luisa Morgantini, parlamentare europeo che da anni è attivo sul territorio palestinese. Luisa avrebbe dovuto incontrare il presidente Arafat. Cosa gli avresti detto? Ma quello che in realtà da tutti questi anni gli dico che era indispensabile finirla con l'occupazione militare israeliana, dire che il suo imprigionamento alla Mukatta è in realtà un blocco al processo di pace, e dire ovviamente che tutto doveva essere fatto per bloccare qualsiasi azione suicida o omicida di estremisti palestinesi, ma questo lo ripeteva sempre anche Arafat ogni volta che l'abbiamo incontrato insieme a parlamentari europei, insieme a movimenti sociali. Arafat sempre diceva che questa questione non soltanto ledeva gli interessi dei palestinesi, ma era anche sbagliata. Non so se lui abbia fatto tutto per bloccare, certo è che il governo israeliano ha fatto di tutto per impedire che l'autorità palestinese potesse espletare le proprie funzioni, distruggendo continuamente qualsiasi infrastruttura palestinese, dai ministeri ai posti di polizia, bombardando le carceri e soprattutto continuando un'occupazione militare che, come dicono palestinesi e israeliani che da anni lavorano insieme per una pace giusta, per il riconoscimento di ciascuno ad un proprio Stato, l'occupazione militare in realtà uccide tutti e tutti. Triste questa giornata di oggi, ma è triste questo tempo. Io mi auguro davvero, e penso che sia così, che il popolo palestinese, la leadership, abbia la capacità e la maturità politica per capire che la cosa fondamentale è davvero riproporre con forza un piano di pace, la roadmap, l'iniziativa di Ginevra, che per la verità anche il presidente Arafat aveva sostenuto, e che insieme però ai palestinesi che sostenevano questo, da parte israeliana c'erano e ci sono Yossi Beilin, ex ministri israeliani, Ayalon, generali, ma non c'è e non c'è stato il governo Sharon. Luisa, come tu sei una profonda conoscitrice della situazione palestinese, secondo te quali saranno adesso gli sviluppi sul piano interno? Beh, è molto complessa, perché in realtà la risposta israeliana immediata è stata la chiusura di tutti i territori occupati, quindi l'impedimento ai palestinesi di muoversi, quindi acutizzare le possibilità di reazione di estremisti palestinesi. In realtà mi sembra però di aver capito in questi giorni, anche quando ero in Palestina, che il momento drammatico e anche di svolta epocale è colto anche da pezzi dell'autorità palestinese, ma molto dalle opposizioni democratiche e dalla società civile, che in Palestina, malgrado i nostri media non li mostrano, è una società civile molto ricca, molto articolata, che dice non c'è più Arafat, non c'è più un uomo come Arafat e nessuno lo potrà sostituire, perché è stato unico e irrepetibile sia nelle bellezze che nelle miserie, ma certamente ci sono forze interne palestinesi che vogliono riforme, che vogliono le elezioni, però che vogliono e chiedono fortemente alla comunità internazionale basta con le ipocrisie, qui si tratta di diritto che deve essere rispettato, fatelo rispettare anche al governo israeliano. E si è sviluppata soprattutto in questi ultimi tempi voci forti, ma anche organizzazioni palestinesi che rifiutano la logica della rivolta armata, sia quella che viene prevista anche dalle convenzioni di Ginevra, che è la lotta armata contro le forze militari che occupano il proprio paese, sia quella però e soprattutto contro attentati, suicidi, omicidi fatti da palestinesi, che possono anche essere disperati i giovani, ma sicuramente non è disperato, ma la strategia politica, quella di Hamas e Jihad, che uccidono popolazione civile israeliana. Ecco, io penso che all'interno delle forze palestinesi ci sia questa capacità e maturità politica di capire che bisogna stare alle regole. Per esempio, mi sembra importante si sta decidendo adesso, ma penso che sarà in questi momenti a Ramallah, c'è ancora in atto la riunione del Consiglio Legislativo Palestinese, cioè il Parlamento Palestinese, che per esempio si segue la legge sostiene che deve essere in realtà fatua che lo speaker del Parlamento palestinese a prendere le redini in questa fase di transizione che durerà 60 giorni. Certamente io mi auguro che leader come Abu Mazen, che sono stati in realtà mal usati anche dagli Stati Uniti e da Israele, riescano a mantenere insieme una collegialità di potere, ma ci sono le nuove forze, c'è Kaddura Fares, c'è Ghassan Khatib, già attuali ministri che non rappresentano pure né i dotabili, ma rappresentano la forza nuova che si è formata all'interno dei territori occupati fin dalla prima intifada. C'è Marwan Barghouti che è incarcerato, che vive in una cella di 1,50 m e sta marcendo lì dentro, che è stato condannato a 5 ergastoli, ma che però è un leader che ha sempre voluto la pace, e anche quando venne è stato condannato a 5 ergastoli diceva nella sua arringa: io sono per la pace, ma sono per la pace che veda la coesistenza di due popoli e due stati, quindi anche di lui si deve riparlare. Certo è che se non si fanno pressioni sul governo Sharon, che invece in questo momento sta avendo dal nostro governo, per esempio con la presenza di Fini, alti riconoscimenti, ho appena saputo che dentro il Parlamento italiano ci sono state delle vergognose posizioni, Arafat non era un terrorista, ha usato anche forme di terrore, ma in realtà in tutti questi anni io non l'ho mai sentito una volta dire bene di terrorista, ha sempre detto molto male di terrorista, ha sempre detto che era disposto alla pace. Ecco, penso e spero che la comunità internazionale sappia dire basta con questa ingiustizia e sappia porre fine a questa morte sia di palestinesi che di israeliani che avviene in territori occupati, che avviene in Israele, ma che un po' di giustizia finalmente si è fatta per i palestinesi. Hai parlato prima di un giorno triste, estremamente triste, e ti recherai a un altro triste evento, il funerale del presidente oggi pomeriggio. Quale atmosfera ti aspetti di vedere? Al Cairo sicuramente è un'atmosfera che non mi piacerà, di capi di Stato, di governanti che in realtà non hanno fatto tutto il possibile per fare in sì che non ci sia più guerra, anzi guerra, che non ci siano più morti e distruzioni in Palestina e in Israele, e che i palestinesi possano vivere liberamente nel loro Stato, quindi lì non mi sentirò bene sicuramente, mi sentirò meglio credo a Ramallah quando andrò, quando sarò insieme a palestinesi e anche israeliani che verranno al funerale di Arafat, ovviamente israeliani che non accetteranno la proibizione fatta dal governo israeliano di cittadini israeliani che sono a Ramallah, quindi mi sentirò bene male lì, perché sarà molto triste pensare che viene tumulato dentro questa bucata che io ho visto diverse volte distrutta dagli Apache israeliani, e ho incontrato tante volte Arafat e ho visto Arafat giorno per giorno diventare più piccolo e più debole, e l'ho visto insieme a tanti altri palestinesi, anzi sono andato una volta con 300 giovani israeliani che lui ha accolto con grande gioia, perché erano israeliani che credevano nella pace e non nella guerra.